Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, questa è Europa 24. Non si placano le tensioni, le violenze nell'est dell'Ucraina, ma il neopresidente Poroshenko non ha dubbi. I combattimenti devono finire entro la settimana. Si apre dunque una settimana cruciale per il conflitto che vede da settimana le forze di Kiev contrapposte ai ribelli filorussi, ma anche per una possibile soluzione alla questione del gas. Un passo avanti su questo fronte potrebbe arrivare già oggi nel corso di un incontro a tre a Bruxelles. Ma intanto la Bulgaria sospende i lavori del gasdotto South Stream. Nuovo colpo di scena nella vicenda South Stream, il gasdotto progettato per portare il gas russo in Italia e verso altri paesi europei dopo aver attraversato il Mar Nero e la Bulgaria. Il premier bulgaro Plamen Orešarski ha annunciato di aver ordinato lo stop ai lavori su richiesta dell'Unione Europea. Il progetto è finito da mesi nel mirino sia di Bruxelles che degli Stati Uniti. La regia è infatti stata affidata al colosso russo Gazprom, quindi nei fatti al Cremlino di Vladimir Putin, che oltre a ben precisi interessi economici punterebbe anche ad utilizzare South Stream per tagliare fuori l'Ucraina dai circuiti di transito del gas. Non a caso, proprio venerdì, l'ambasciatrice americana in Bulgaria, Marcy Reese, si era detta profondamente preoccupata dopo che Sofia aveva scelto il consorzio guidato da Stroytransgaz, azienda russa finita nella lista nera delle sanzioni europee, per costruire la sezione bulgara del gasdotto. Allo stesso tempo, la Commissione europea ha insistentemente fatto notare come il progetto potrebbe violare le regole comunitarie e ha avviato una procedura di infrazione. Sotto il fuoco incrociato di Bruxelles e Washington, il governo bulgaro alla fine ha capitolato, bloccando lavori il cui via era previsto già quest'estate. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel pomeriggio in Svezia è in programma un mini vertice tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il premier britannico David Cameron, con la partecipazione dei premier svedese e olandese. L'incontro sarà dedicato essenzialmente a sciogliere il nodo della candidatura di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea. I kosovari hanno votato ieri nelle seconde elezioni parlamentari tenute nel paese dalla proclamazione dell'indipendenza nel febbraio del 2008, un voto ritenuto cruciale per il cammino europeo del piccolo paese balcanico, per il futuro del premier Hashim Thaçi, un ex leader della guerriglia indipendentista albanese Luci Kappa, che mira ad un terzo mandato consecutivo alla guida del governo e che secondo i dati sarebbe in leggero vantaggio. E ora il tema del sovraffollamento carcerario. Dopo la positiva presa di posizione da parte del Consiglio d'Europa, si attendono i provvedimenti del governo italiano. Nessuna multa quindi per ora, anche se il Consiglio d'Europa non abbassa la guardia su questo problema che riguarda gran parte dei 47 stati, che tiene sotto la lente, come spiega Giuseppe Zaffuto, portavoce del Consiglio, al microfono di Anna Marino. La decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa si rallegra delle misure prese dal governo italiano. Ci riferiamo naturalmente alle sentenze Sulejmanovic del 2009 e Torreggiani del 2013, che sono riguardanti il sovraffollamento cronico, se vogliamo, delle prigioni italiane. Per le misure strutturali che sono state prese, in particolare la riduzione della popolazione carceraria italiana e l'aumento dello spazio per ogni detenuto nelle carceri italiane superiore a 3 metri quadri. Ci sono degli altri step da rispettare? C'è un altro step fondamentale, che sarà quello del giugno del 2015, quando il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa si riunirà ulteriormente per constatare, per monitorare il progresso delle autorità italiane. Quindi, se vogliamo, ci sarà un'ulteriore verifica tra un anno. Si attende il decreto legge imminente, di cui ha parlato anche il ministro Orlando, sulle indennizzazioni per i detenuti ancora carcerati e per le compensazioni pecuniarie per coloro che hanno già scontato la pena. Per quanto riguarda però i paesi europei e il sovraffollamento, l'Italia non è l'unica ad avere questo problema. L'Italia non è l'unica ad avere questo problema, d'altra parte anche questo è uno, se vogliamo, dei compiti del Consiglio d'Europa come guardiano dei diritti umani nel continente. Inoltre il Consiglio d'Europa ha un meccanismo di monitoraggio che si chiama Comitato per la prevenzione della tortura e per tutti i trattamenti inumani e degradanti, che compie delle missioni in tutti e 47 i paesi del Consiglio d'Europa, che ricordo non sono semplicemente i 28 paesi dell'Unione Europea, ma anche paesi come la Russia, la Turchia, i Balcani, i paesi del Caucaso, i microstati d'Europa ed anche paesi che fanno parte dell'area economica europea come la Svizzera o la Norvegia, che non fanno parte dell'Unione Europea. È tutto per Europa 24. Vi saluta qui Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.